Questa è per chi è indeciso per le prossime elezioni. Così vi confondiamo un altro po' le idee. Vai Stefano, che poi è... Questo è l'ultimo, oh. Fate un applauso a Stefano che sta per morire. Oh. Suicidio dell'uomo falena. Stribonis in ciammacchere.